Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Gli uomini in effetti non concepiscono l'idea che una donna non possa essere emotivamente coinvolta. Gli piacerebbe forse, ma poi quando accade non sanno capacitarsene, pensando che non sia possibile, e trovano in gesti privi di alcun significato segnali nascosti di un amore inesistente. Mi chiamo Mary, ho 30 anni, vivo nella provincia di Varese e faccio l'impiegata. Allora, oggi parleremo dell'unico colletto, perché farò una recensione. 50 sfumature di grigio. Allora, è un romanzo erotico, e vabbè, fino a qua almeno già ho detto l'argomento. Ci sono due protagonisti, ovvero Anastasia Steele e Christian Grey, che fra l'altro Christian è un bellissimo nome. Allora, vanno a letto insieme. Lei ha 22 anni e è ancora vergine. Dopo 2-3 giorni incontra lui e ci va a letto. Io ci avrei pensato un po' di più, comunque, insomma, no. Ecco, questo è un fenomeno del contro... è un controfenomeno questo. Cioè, il fatto che quest'anno il libro più letto... più venduto, o meglio la trilogia di libri più venduti, fosse un libro che aveva, che era una sorta di Harmony un po' piccante pubblicato da Mondadori, ha creato questo fenomeno per cui pareva che tutti leggessero solo quei libri lì. Si è creato però questo controfenomeno, che sono le recensioni amatoriali di questa trilogia di libri, e sono una cosa spassosissima. Se vi capita, provate a scrivere recensione 50 sfumature o quello che è, e in questo caso Tiziano dice: abbiamo fatto 30 secondi da 24 minuti di recensione. Insomma, 24 minuti sono tanti da passare davanti a un video su YouTube, però se ne avete anche solo un paio vi consiglio di andare a vederlo. Abbiamo aperto così oggi semplicemente per levarci dall'impiccio immediatamente e dall'impaccio anche, ed è che oggi noi parleremo di questo argomento qua, che è un argomento delicato, no, però molto controverso. Si parla di sesso, di sessualità, di uomini e donne, di come sono gli uni, come sono gli altri, cosa li unisce, cosa li differenzia, cosa va bene a uno, cosa va bene agli altri, senza parlare di quel libro. Ok, noi parliamo semplicemente del racconto che ci ha inviato Mary, che ringraziamo, anche se poi alla fine Mary non ha voluto, diciamo, partecipare attivamente da un punto di vista telefonico con la sua voce, però la ringraziamo comunque per averci inviato il suo racconto. 349-238-6666, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, sono le 16:09 ed è un bel venerdì 5 di ottobre, bello semplicemente perché è venerdì, è un 5 di ottobre. Ecco, vi leggo questo passaggio del racconto, non in anteprima perché ve lo leggo 30 secondi prima, ma di quale senza amore è stata la storia più bella della mia vita, dice. Più divertente e sicuramente più soddisfacente dal punto di vista sessuale. Il sesso fine a se stesso ti libera dalla paura di essere giudicata. C'è stato, quando abbiamo letto questo passaggio, nella folta redazione di Voi siete qui, io, Tiziano Bonini e Margherita Ina, quindi eravamo già 2-1, la domanda: cosa vorrà dire esattamente tutto questo? E allora ho buttato lì questa cosa sul profilo Facebook, che è Voi siete qui Radio 24, e non c'è niente da fare. Tutto... questo argomento, non c'è pace su questo argomento, non c'è pace sulla sessualità, non c'è intesa sulla sessualità, per cui c'è chi butta lì una battuta, c'è chi dice che l'altro è un imbecille, sono pochi quelli che affrontano con pacatezza questo argomento. Noi ci proviamo, anche oggi lo facciamo con un ospite, giusto, nella seconda parte, con una sessuologa che è una professoressa dell'Università La Sapienza di Roma, che è di solito ospite di Nicoletta Carbone d'Essere Benessere, ma noi la facciamo anche un po' nostra. 349-238-6666 se avete idea di cosa più o meno significhi quello che ha scritto Mary. So che Francesca risponde: quanto è vero, ha ragionissima. Luisa scrive: questa è paura di mettersi in gioco, però ce n'erano un paio divertenti. Vincenzo scrive: non posso dire la mia, mia moglie ti ascolta. Benissimo, quindi moglie di Vincenzo, visto che sei in ascolto, sappi che tuo marito la pensa così. Margherita scrive... niente, poi ci sono quelli piccati, ovviamente. Margherita: significa che non conosce la grammatica, perché la parola se stesso si scrive senza accento. Il resto è una vaccata, più o meno. E poi chiudo la diatriba sul profilo Facebook. Mary che le risponde: trovo di una grande cafonaggine quelli che sanno sempre dove vanno messi gli accenti. 349-238-6666. Oggi in realtà, più che una puntata totalmente dedicata alla sessualità, è proprio una puntata dedicata all'educazione

Caro amico, guarda che con quello che passa la SIAE al massimo si fa la vita da barbone. Guarda, Rosario da Napoli, io non so che rapporti tu abbia con la SIAE, ma c'è gente che con i soldi della SIAE ci fa la vita, che se la compra la SIAE. Il sesso senza amore è un dolce molto dolce. Il primo piace, il secondo sazia, il terzo nausea. Va bene per un tempo limitato. Viola, firmato da Viola, 60 anni. Grazie a Viola che ha partecipato, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La sera di oggi era la storia di Mary e anche lei è un punto rosso su una mappa. Salve, io sono Gianni, vivo a Firenze e la storia del lunedì è la mia e parla di suggerimenti che possono portare cambiamenti nella vita. Questa è la mia storia e io sono qui.